I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Parliamo oggi di infrastrutture e appalti, perché ieri Palazzo Chigi ha diffuso un comunicato in cui si chiariscono alcuni dei cambiamenti inseriti nel codice degli appalti, che mirano, nelle intenzioni del governo, a perfezionare l'impianto normativo, ma a confermare i pilastri fondamentali. La novità principale in realtà è una conferma, ossia la soglia del 30% per i subappalti. È questo infatti il limite sul totale dell'importo contrattuale per l'affidamento in subappalto. Ma c'è anche l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di scegliere i collaudatori da un apposito albo. Tutto bene quindi? Abbastanza, potremmo rispondere, e lo dicono gli stessi costruttori riuniti nell'associazione ANCE. Lodano allo sforzo economico del governo, ma fanno notare che altri enti pubblici, in particolare i comuni, nonostante si sia superato il cosiddetto patto di stabilità interno, ossia i limiti posti alla spesa dei comuni, non sono riusciti a spendere 2 miliardi di investimenti previsti in opere infrastrutturali. E soprattutto i costruttori italiani fanno notare che esiste un tempo ingiustificatamente lungo tra quando viene annunciato lo stanziamento e quando si apre effettivamente il cantiere. Gli ultimi dati disponibili, dice l'ANCI, ricordano che per passare dal progetto al lavoro finito ci vogliono 10 anni e 3 mesi in caso di grandi opere e 7 anni e 3 mesi per le medio-piccole. Sono dei numeri oggettivamente inaccettabili se si considera l'effetto volano che in particolare le piccole opere infrastrutturali hanno sul territorio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Mentre la Fiat sostanzialmente riconferma gli obiettivi di crescita per il resto dell'anno, un passo indietro, se non altro strategico, è stato fatto oggi da Lingotto. Marchionne ha sostanzialmente abbandonato quello che gli americani definivano un non realistico piano di fusione con un'altra grande casa mondiale. Si era parlato prima della General Motors, poi si è passati all'ipotesi Volkswagen. Lo stesso Marchionne aveva detto: mi aspetto una telefonata dalla Germania. In realtà Marchionne è tornato sul realismo. Il realismo si tratta di che cosa? Investire in tecnologia, cercare alleanze che possano spingere avanti la Fiat e riagganciare le altre grandi case, soprattutto sull'auto sia che si guida da sola, ma anche su quel progetto di auto elettrica in cui l'Italia è un po' rimasta indietro rispetto agli altri. La situazione in questo momento della casa automobilistica sotto il profilo finanziario si chiama debito, e questo sembra oggi l'obiettivo principale sia della famiglia di controllo, gli Agnelli, che del suo manager Sergio Marchionne. Tagliare l'indebitamento prima di lasciare l'azienda nel 2019 è diventato l'obiettivo principale, e il segnale che è arrivato in questi giorni dalla borsa sembra confermare che anche i mercati ritengono sia giusto. Ieri la Fiat ha perso circa il 4%, oggi i mercati sono chiusi, lunedì vedremo come i mercati finanziari hanno accolto questa nuova inversione U di Sergio Marchionne. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.